L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati. Questa volta iniziamo la trasmissione con un po' di relax. Ci prendiamo qualche secondo di pausa. For a long, long time, I contemplated the ocean without understanding it. I could feel the immense energy of its waters. I was astonished by the depths of its blues. Quello che abbiamo sentito in apertura, che stiamo ancora sentendo in sottofondo, è l'incipit del film documentario Planet Ocean, che è diretto da Yann Arthus-Bertrand e Michel Pitiot, creato in collaborazione con Omega. Ora, questo film è disponibile in questo momento anche in Italia, anche se non suona proprio così. Insomma, la voce è un'altra, è la voce di Luca Mercalli. Luca Mercalli, buonasera, benvenuto con noi. Buonasera a tutti voi. Fa un po' effetto, no? Voglio dire, anche doppiare una donna con questa voce così suadente è diverso. Com'è stato? Ma è stata sicuramente un'esperienza importante, prima di tutto per la risonanza che questo documentario mi ha generato. Ho accettato questo incarico anche per questo motivo, che non era un lavoro solo di doppiatura, ma era anche un riconoscersi nel messaggio importantissimo che questo film ci vuole portare. Perché questo film, adesso lascio a lei poi lo spazio per spiegare un po' di più che cosa, qual è il messaggio del film, ma comunque è un film che ci riporta all'origine della vita, ci fa ripercorrere un po' tutto quello che è stato il nostro trascorso come esseri viventi, no? Su questa terra si comincia da lontanissimo, si ricomincia dalle prime forme di vita e poi si arriva fino a quello che noi oggi facciamo al pianeta oceano. Sì, perché noi siamo nati dall'oceano, la vita prende forma proprio nelle acque oceaniche circa 3 miliardi di anni fa, poi si evolve e solo molto tardi emergerà sulle terre e l'uomo è l'ultimo arrivato dal punto di vista di questa evoluzione. Un ultimo arrivato che ha molto approfittato degli oceani per tutto, per la propria sussistenza, pensiamo banalmente soltanto alla pesca, ma gli oceani sono stati anche vie di comunicazione, via di approvvigionamento di materie prime, di commerci, di guerre, insomma sono stati veramente un luogo strategico per il nostro sviluppo, per la nostra storia. Però ecco che qui il film, dopo averci fatto vedere con magnifiche immagini, direi le più belle, meravigliose, sì, sicuramente, perché è fatto da Yann Arthus-Bertrand, che è un maestro delle riprese dall'alto, ma quando invece si deve tuffare al di sotto del livello dell'acqua ha chiesto aiuto ai migliori professionisti delle riprese subacquee. Quindi il film possiamo dire che è veramente una sintesi della miglior fotografia che oggi si possa trovare sugli ambienti sottomarini. Quindi vorrei dividere il film in due parti. La prima parte è la celebrazione della bellezza degli oceani, della straordinaria quantità di biodiversità che è ancora tutta da scoprire, le barriere coralline, gli abissi più profondi. Ma la seconda parte, che è quella che io reputo fondamentale oggi per darci un po' la giusta dimensione di quello che noi stiamo facendo agli oceani, è la denuncia del loro sovrasfruttamento. Cioè gli oceani come visti come un luogo di depredazione di risorse senza limiti. Ed ecco allora le immagini della pesca dove si vanno a esaurire i grandi banchi di pesce che sono state il sostentamento dell'umanità per millenni, una pesca industriale rapace che prende tutto quello che trova, oppure gli allevamenti, oppure l'inquinamento, i grandi porti asiatici con milioni di container, navi lunghe centinaia di metri. Insomma, direi che il film ha una sorta di accelerazione nella seconda parte, fino a portarci alle domande fondamentali: quanto a lungo potremo ancora continuare su questa strada? Quanto a lungo secondo te? Purtroppo sappiamo che se non prendiamo coscienza dei limiti del pianeta, questo quanto a lungo è un periodo sempre più ridotto, o meglio, siamo destinati a un certo punto a avere meno risorse e andare incontro a una diminuzione della nostra qualità della vita. Ricordiamo che siamo 7 miliardi e che ogni giorno ci sono nuove persone che sul pianeta chiedono la loro parte di una torta sempre più piccola.